Io non ce la faccio più. Non si parla d'altro. I giornali non parlano d'altro. Io sono un povero diavolo, signore. Non un uomo potente come voi. Mi sento smarrito, non so più. Dove sono? Ti dirò io dove siamo. Siamo nella regione più estrema e assoluta dell'animo umano. Un luminoso abisso dove l'uomo trova se stesso. Non capisco cosa dite. Non vi capisco, signore. L'inferno, Nedley. Siamo all'inferno. Vengo fuori dalla cripta, bocca morta, tazza boia, cazzo vuoi ora che dica? Il mio horror, la mia vita, sangue sopra le mie dita, non so racconti di zio Tibia. La notte delle streghe incombe, inizia la partita, a pizza un'altra zizza, innalzo qua la che è la trincea, vede già troppi cadaveri, pregare in moschea, venerdì d'ogni santi, fatti forte, fatti cali, morto uno, vedi morti tutti quanti. Ratti, matti e fatti, SS, downtown, sbatti la tua cappa sui pilastri, tu i mattoni non li incastri. Quando io costruisco castelli, tu stronzo vomita con la tua gente attonita di fronte alla mia shit gotica. Fanculo chi mi nomina, fanculo la tua polifonica bella, torna a casa, va a suonare l'armonica. Procuro tagli quando impatti, cazzo vuoi scendere a patti? Fotti col morto che parla, assassini come natti. Un amantide che si scoppa il partner e dopo ne degusta il cervello senza troppe lacrime. Me, senza ritegno chi gioca a suo pegno andando all'inferno e sfugge ridendo chi parla morendo e non lascia segno ma segno ogni verso smontando nel nesso. Il cielo pesto, porpora compresso, calpesto te fesso adesso, chi spinge più sull'acceleratore chiedi a questo fottuto zombie pesto, le tue paure te le levo dal baule ora che sono mature. Dal buio pesto a decadence, zombie sound, la finesse, genuino come Charles Manson sulle vittime, virus d'apice, poison dentro il calice, rebus santi stress, molto che parla, no bless from the hell. Dal buio pesto a decadence, zombie sound, la finesse, genuino come Charles Manson sulle vittime, virus tapice, poison dentro il calice, rebus antistress, molto che parla, no bless from the hell. Aggiungi sale alle ferite, come sale il sangue alle vampire, sale il gusto per la fine, io che non son fine ma col sale gusto tra le spire, ogni morte viva con le spine dentro la matita, sputa calibri da mitra. Nessuno si fida più della sua mira, se fatto fratello non segui la linea. Bombing sulla nation da sera a mattina, smoking guida. Rispetto per i miei soldati evasi e marginati, no non ci prendi siamo già planati, tu con i catti e riflessi allentati. Del tutto sociali dai giorni più strani e venerdì sani più maniacali, fate strappati per cause maggiori, sotto i contratti da droghe ed orrori. Cari miei signori, questa è la Six Side, Hellraiser lifestyle, from the hell till I die. Perché mai dovrei calmarmi, perché mai deporre queste armi, giù con gli sguardi, state calmi voi brutti bastardi. Non fotti Senka, no, la sua famiglia, no. Ritorni a casa subito, vivi sul tuo punto com, fuori da qua però. E perché no, sul mio blog, il tuo blood, schizzo scene come blob, tazza boy hardcore, tipo groll in hardcore. Ciò che so, sta qua giù, troppo vivo per lassù, e this proof of my god, sputo merda sul tuo god. Se dico orrende, quindi lo faccio e boh gente, liquido caliente sul tuo ventre che cola nel mentre. No pace, no alla prossima, è stato un piacere tacere prede qui tra le mie chele, svuotate il tanchiere. Dal buio pesto a decadence, zombie sound, la finesse, genuino come Charles Manson sulle vittime, virus tapice, poison dentro il calice, rebus antistress, morto che parla, no bless from the hell. Dal buio pesto a decadence, zombie sound, la finesse, genuino come Charles Manson sulle vittime, virus tapice, poison dentro il calice, rebus antistress, morto che parla, no bless from the hell. Io qui non mi trovo in presenza di uguali. Nessuno meno di voi è in grado di giudicare la perfezione raggiunta dalla mia arte. I vostri riti sono vuoti giuramenti che non capite e che non mantenete. Il grande architetto mi parla. Egli pesa le mie azioni sulla sua bilancia e mi giudica. Non voi. dal buio presto a decadere. Zombie sound, la finesse, genuino come Charles Manson sulle vittime, virus tapice, poison dentro il calice, rebus anti-stress, molto che parla, no bless from the hell. Dal buio presto a decadere. Zombie sound, la finesse, genuino come Charles Manson sulle vittime, virus tapice, poison dentro il calice, rebus anti-stress, molto che parla, no bless from the hell.